30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. André Glucksmann, filosofo, saggista francese, 73 anni, allievo di Raymond Aron, amico di Sartre, nel 68 partecipa al movimento nelle strade di Parigi, nel 70 aderisce all'ala maoista e definisce la Francia una dittatura fascista. Poi, analizzando marxismo e campi di concentramento, stabilisce un parallelo tra il nazismo e il comunismo. Insomma, una vita, un grande successo editoriale, molte polemiche che fanno parte del suo percorso. In questi giorni è in Italia per presentare il suo ultimo lavoro. Per i tipi di Spirali pubblica Le due strade della filosofia, tradotto dal francese da Luciana Brambilla. Glucksmann, intanto grazie di essere con noi negli studi di Radio 24 a Milano. Merci a voi. Nel suo ultimo lavoro lei confronta Socrate ad Heidegger in un dialogo a distanza, una distanza di 24 secoli. Un dialogo però carico di attualità. Socrate, cittadino di Atene, esordisce ricostruendo le ragioni del suo processo, condanna l'ipocrisia del silenzio che strozza Atene. Mentre corre l'anno 404 avanti Cristo, denuncia quel bavaglio che il potere considera uno strumento per tutelare la pace pubblica, anche al prezzo di un'amnesia generale ed obbligatoria. Si rivolge poi ai contemporanei, a noi, e dice: «Indisponevo i potenti, democratici e oligarchi, voi direste di sinistra e di destra». Da Atene a Pechino, per interpretare l'attualità di oggi. Allora, signor Glucksmann, Nobel per la pace conferito a Liu Xiaobo, intellettuale e scrittore sconosciuto ai più. Il Nobel suscita l'ira cinese. Liu è stato riconosciuto colpevole di un crimine. Assegnargli il premio equivale a incoraggiare un crimine, dice Pechino. La colpa di Xiaobo, infine, la colpa della sua penna, è dunque quella di aver minacciato l'armonia, proprio come Socrate 24 secoli prima, e soprattutto l'accusa ha una sua consistenza. Lei mi ha anticipato. Questo fatto di attualità ci riporta in effetti a Socrate. Liu Xiaobo è stato accusato proprio di crimini di parola, esattamente come Socrate era stato accusato di usare la parola contro i potenti. Socrate era un filosofo che interrogava, poneva domande, cercava la verità senza cercare di compiacere i potenti. C'è un altro lato però di questa vicenda. La signora Ma Chaoshu, che è la portavoce del ministro degli esteri cinese, due giorni fa di fronte ai giornalisti ha detto lapidaria: «I membri dell'Accademia norvegese non hanno diritto di giudicare». Sembra l'epitaffio sulla tomba di quella politica dell'ingerenza umanitaria che fu così cara alla Francia di François Mitterrand. Ora, lei cosa ne pensa? Abbiamo il diritto di giudicare, magari di pretendere, sbagliando forse, un ordine delle cose, una scala dei valori e di chiederlo anche alla Cina? Il faut pas exagérer. Mitterrand, il a subi notre action. Non bisogna esagerare. Il presidente francese François Mitterrand ha subito la nostra azione. Non era proprio un partigiano della politica dell'ingerenza umanitaria. Il problema è le droit de dire son opinion. E ça concerne absolument tout le monde. Io vorrei parlare dell'ingerenza della verità, e questo è un problema che ci accomuna tutti, ieri e oggi. Il diritto di poter esprimere la propria opinione è un problema di tutti. Quando non c'è più libertà di parola, questo non è più un problema della sola Norvegia, ma era già un problema della Grecia antica. Per questo Socrate era stato messo a morte, perché, proprio come dicevo prima, cercava la verità. C'est précisément parce qu'il parlait, parce qu'il interrogeait, et que Athènes. E invece i potenti dell'epoca avevano deciso di imporre una certa amnesia, proprio come nella Cina attuale si è deciso di dimenticare i crimini commessi da Mao Zedong. Eh bien, l'amnistie et l'amnésie, c'est ce qui concerne les crimes, par exemple, de Mao en Chine. Sebbene mi si dia per morto da 2500 anni, accettate che riprenda la parola per interposta persona. Il mio portapenna, poveretto, si vedrà accusato di abuso di fiducia a voler condire le sue storie con un nome tuttora detto prestigioso. Si consoli. Non ho lasciato alcuno scritto, né ben inteso alcuna registrazione. A ciascuno l'incarico di ritagliarsi un Socrate a propria misura o dismisura. Confesso di provare un piacere sadico a questi imbrogli. Già da vivo, obbligavo i miei interlocutori a ritornare su se stessi, conosci te stesso, partorendo le loro convinzioni più radicate, spesso le meglio dissimulate. Con ogni probabilità, avevo ereditato questo talento da mia madre, che faceva la levatrice. Nell'oltretomba, la mia giravolta rimbalza all'infinito e ciascuno dispone di un Socrate a propria immagine. Prova che la mia famosa maieutica, l'arte di mettere al mondo gli spiriti, funziona post mortem. I vostri austeri storici delle idee hanno tentato a tutti i costi di passare oltre la contraddizione delle testimonianze e la moltiplicazione delle interpretazioni per fissare il vero Socrate, un Socrate tale quale l'esame obiettivo dei miei fatti e dei miei gesti lo definirebbe. Un buco nell'acqua. Da Socrate a Martin Heidegger, dunque affronta il suo coinvolgimento già nelle prime pagine del libro nei cupi affari del Terzo Reich. Rivendica l'attualità del suo pensiero fino a definirsi primo teorico della lotta ecologica e dice: «Non aspettatevi il mio pentimento, è ora di ammettermi quale fui, filosofo e nazista finché vi aggrada, ma comunque filosofo». Ora, questa frase mi ha portato una riflessione ed è questa: dobbiamo intendere che ai filosofi è garantita comunque un'impunità politica rispetto alle proprie idee? E soprattutto, allora, a cosa servono i filosofi se non ad aiutarci a dare una scala delle cose? Écoutez, à mon avis, la philosophie c'est une bataille d'idées. Guardi, secondo me la filosofia è un campo di battaglia per le idee. Ci sono dei filosofi sostenitori del concetto di autorità, come era Heidegger, e quando invece non c'è un'autorità da sostenere, e si è allora sostenitori della disperazione. Io invece sono per chi sostiene la verità, come faceva Socrate. Heidegger è morto, e se riprendo la parola, sarà per il tramite di una voce venuta da nessuna parte. Sono un'ombra esente da responsabilità, posso ridere e infischiarmene, fosse pure di me. Converrete che non era questo il mio profilo abituale. Per tutta la vita ostentai una serietà professionale che niente turbava, non le burrasche dell'attualità, a malapena il fascino delle mie studentesse. Il minimo mio discorso suonò parola di Vangelo, non solo alle orecchie devote, ma per un'opinione generale che, anche ostile, non potrebbe supporre che un filosofo della mia tempra fosse in vena di scherzare. Morto e sepolto, passato, trapassato, mi sento sollevato di non avere più da atteggiarmi, liberato dal personaggio marmoreo che auspicava troneggiare nel pantheon della filosofia. 6 piedi sottoterra. La vita mi alleggera. L'esistenza non pesa più perché ne sono sprovvisto e allora posso parlare in prima persona e seguire le ispirazioni del momento senza curarmi della reputazione, senza rispettare quell'Heidegger che è sempre vivo solo per i suoi eredi. Non sono stupido. Il culto post-mortem non è servito granché a un Platone imbalsamato o a un Marx deificato. Dunque, lasciatemi godere la mia nuova libertà, dovessi disilludermi. Non aspettatevi né rinnegamento né pentimento. Non ignoro che il mio nome rimane disonorato da un pugno di spiriti critici, più politici che filosofici, che mi perseguitano in una vendetta spietata. Ho conosciuto di peggio e constatate che il loro numero diminuisce. È ora di ammettermi quale fui, filosofo e nazista finché vi aggrada, ma filosofo. Restiamo in Europa, anzi in Francia e in Italia. In Francia gli studenti universitari, anche oggi, protestano contro la riforma delle pensioni del presidente Sarkozy. In Italia, sempre oggi, contro la riforma delle università e della ricerca. Il punto comune, la sensazione delle giovani generazioni sembra di essere quelle senza futuro. Hanno ragione a vedere così le cose? Oui, alors, que les jeunes contestent, che i giovani protestino è normale, è così dal Medioevo. Ora io non so se protestino per la loro pensione o perché preferiscono incontrarsi per strada. Ma, a suo avviso e per la sua esperienza, c'è una differenza o tutte le contestazioni sono uguali una all'altra? No, ovvio. Le contestazioni non sono tutte uguali. Ma trovo molto più grave che nessuno abbia contestato, né a destra né a sinistra, il fatto che un esercito abbia ucciso in Cecenia 250.000 persone su una popolazione totale di 1 milione. Arriveremo anche a questo. La Francia, ancora, culla dei diritti civili, è una delle culle, ha dato un contributo essenziale all'affermarsi di una certa idea dell'Europa. Oggi, sotto i riflettori, c'è la politica di Sarkozy nei confronti dei Rom. Allora, il commissario europeo Reding attacca, la sinistra si schiera. Lei cosa ne pensa? Je pense beaucoup de mal. Penso molto male della politica del presidente Sarkozy contro i Rom. Les Rom, je trouve che c'est Trovo che sia inumano mandare dei bulldozer per distruggere piccole case o per schiacciare bambole e televisori. Lo trovo disumano. Lei ha definito Sarkozy come l'uomo capace di dialogare con la Francia del cuore, quella che sostiene i Boat People, che sostiene i vietnamiti, il comunismo solo in Arnos e così via. Anche questa sua affermazione ha creato una grande polemica. Allora, come valuta il sostegno italiano alla politica delle espulsioni? Cioè, Berlusconi e Bossi sono l'Italia del cuore, secondo lei? No, ce que j'ai trouvé bien dans Sarkozy. Quello che trovavo di positivo nel presidente Sarkozy era, per esempio, che avesse detto che il massacro ceceno non fosse un dettaglio. Poi è cambiato totalmente. Ora è amico del presidente e primo ministro russo. Anzi, vuole perfino vendere delle armi ai russi. 30 minuti in cronaca. Ancora una buona sera da Gigi Donelli. Questa sera con noi André Glucksmann, filosofo saggista. Dunque, parlavamo di Sarkozy, candidato del cuore della Francia, ma abbiamo lasciato in sospeso un elemento. Chiedevo infatti a Glucksmann, Berlusconi e Bossi sono, a suo avviso, l'Italia del cuore? Écoutez, je ne suis pas expert de la politique du cœur, mais non sono un esperto della politica del cuore, ma io penso che il cattivo trattamento delle persone indifese, come ad esempio i rom in Italia, ecco, questo trattamento disumano mi fa stare male e non mi fa pensare che chi lo porti avanti abbia del cuore. Celui qui martirise des pauvres gens a vraiment beaucoup de cœur. Ecco, in Italia come in Francia, il governo magari si divide, litiga, in Italia di più direi, ma la sinistra resta lontanissima, sullo sfondo degli eventi. Come mai si è fatto un'idea del perché la sinistra, nonostante le difficoltà dei governi di destra e di centrodestra, non riesca a riemergere? Écoutez, à mon avis, il n'y a pas de grande différence. Secondo me non c'è oggi una grande differenza tra destra e sinistra. Prima le differenze erano più marcate. Riprendo l'esempio di prima, cioè i rapporti politici e militari con la Russia di Putin. O penso all'aggressione russa dell'estate del 2008 contro la Georgia, una nazione con una popolazione di 4 milioni e mezzo di persone contro la Russia, che ha 140 milioni di abitanti e ancora un esercito gigantesco. Ecco, nel 2008 né a destra né a sinistra si è risvegliato un sentimento di solidarietà verso la Georgia. Come non c'è stato un sentimento di solidarietà nei confronti dei ceceni o dei rom, come dicevo prima. In questo, destra e sinistra sono molto simili. La ressemblance entre la gauche et la droite et ça explique l'impuissance de la gauche. Questo naturalmente ci riferiamo di solito a dei modelli storici molto europei. Vorrei farle una domanda allora sul presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che a giorni affronta l'elezione di midterm, circondato dalle critiche e dal pessimismo. Insomma, il primo presidente afroamericano. Fa parte delle illusioni del nostro tempo o è piuttosto il segno incontrovertibile che il mondo cambia in maniera straordinaria e che nonostante tutto marcia verso una riduzione progressiva delle ingiustizie? Non, je pense que c'est un progrès pour les États-Unis. Penso che il progresso per gli Stati Uniti fondamentalmente sia di aver eletto un presidente per tre quarti di origine africana, quando, vorrei ricordarlo, è un paese che ha conosciuto una schiavitù recente, l'apartheid. Ma non è perché un uomo è di origine africana che per forza pensa e agisce in modo giusto. Bisogna giudicare le persone dai loro atti, e gli atti di Obama non sono molto convincenti. Les actes de Obama ne sont pas très convaincants. Certo, sono d'accordo con lui per quanto riguarda i provvedimenti di cambiamento e di modifica del sistema di previdenza sociale e della salute. Ma per quanto riguarda la politica estera, non mi sembra che abbia fatto grandi cose. C'è una nota di pessimismo nelle sue parole, o magari di attesa, non lo so, forse un sentimento. In ogni caso, Marc Fumaroli, storico saggista francese dell'Académie Française, giovedì sulle colonne del Corriere della Sera, dice che a noi, noi italiani, spetta un ruolo guida per uscire dal declino culturale dell'Europa. Ora, lui dice, chi è stato protagonista del Rinascimento può essere protagonista di un nuovo Rinascimento. Da noi, sorpresa. Una sorpresa, direi, distratta di un paese che non coltiva un'alta immagine di sé. Ma insomma, lei crede nell'Italia, lei crede nell'Europa come modello di rilancio rispetto a quanto abbiamo detto? Écoutez, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais dit oui, l'Europe est un modèle. Se mi aveste posto questa domanda 10 anni fa, le avrei risposto sì. L'Europa può essere un modello. Del resto, negli ultimi 50 anni è riuscita ad abbattere un regime dittatoriale, a frantumare un sistema totalitario a est e a sradicare il fascismo in Spagna, Portogallo e Grecia. Quindi un progresso e un'emancipazione straordinaria che fa pensare alla primavera dei popoli. Vorrei chiudere con una nota sull'uso della parola filosofia, proprio quella che introduce il suo saggio. Un secolo fa, scrive, preferivamo le scienze dure, esatte, precise. Oggi il capovolgimento è compiuto. L'etichetta di filosofo eleva le nostre attività e dice forse che non ci si interroga con rispetto, che non si interroga con rispetto la filosofia di una campagna elettorale o addirittura di una campagna pubblicitaria, di una riforma scolastica. Poi la domanda è: una moda volatile, signor Glucksmann, oppure è cambiato davvero qualcosa in maniera definitiva? Non, je pense pas qu'il y ait jamais un changement définitif. Io non credo che esistano cambiamenti definitivi. Per me la filosofia, quando è bene usata, quando è socratica, è un modo di opporsi e di rifiutarsi di vivere nella menzogna. Esattamente questa era la parola d'ordine della dissidenza alla base della Carta 76 in Cecoslovacchia, della Carta 08 in Cina che ha sostenuto Liu Xiaobo. Questa è la forza della filosofia. Quando invece un filosofo pretende di insegnare agli altri come innamorarsi, come vivere o come morire, ecco, secondo me questo non è il ruolo di un filosofo. Vuol dire che il filosofo si pone come un prete. Non stiamo più parlando di vera filosofia. La ringrazio, grazie di essere stato con noi. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'écouter. Circa un secolo fa, intraprendere studi di filosofia alla Sorbona portava a tutto, a condizione di uscirne. Questa disciplina incerta e molle non godeva di buona reputazione. Le si preferivano le scienze dure, esatte, precise. Oggi il capovolgimento pare completo. L'etichetta di filosofo viene a elevare quasi con squisita distinzione una qualunque delle nostre prosaiche attività. Ieri, la scienza rigorosa e le rivoluzioni radicali offrivano un punto di vista esterno e dominatore sul corso abituale delle cose e degli eventi. Oggi, il nostro universo non ha più esterno. I nostri scientismi e i loro inalterabili determinismi suonano anacronistici, mentre il rivoluzionarismo finisce per innalzare, come nel 1930, un miraggio credibile di socialismo di fronte alla nuova crisi mondiale del capitalismo. Bando al Katai, a Rossi Eldorado o antipodi esotici. L'esistenza planetaria non si lascia più esaminare né passare al vaglio a partire da un altrove privilegiato. La Cina e il Brasile, divenuti parte beneficiarie e attive del nostro ambiente, partecipano alle sue alee. L'umanità è chiusa in se stessa. Non rimane alcuna probabilità di tirarsene fuori con un sorvolo assoluto. Conviene allora cedere al «cosa ne dirà il tuo entourage». Chi si rifiuta ritrova la filosofia, opposizione interiore al regno dell'opinione. Sembra il momento giusto per riannodare con l'impossibile signor Socrate. Ancora grazie dunque ad André Glucksmann, filosofo, saggista, lo ricordo in questi giorni in Italia, presenta il suo ultimo lavoro, Le due strade della filosofia, tradotto dal francese da Luciana Brambilla. Grazie anche al prezioso lavoro di Guido Scotti, a Filippo Aureggi in regia. Non mi resta che ricordarvi www.radio24.it per sentire e risentire le trasmissioni di Radio 24 e augurare a tutti voi un ottimo fine settimana.